Non ti scordare di te. Vacci a vaccinarti, per favore. Vacci è imperativo presente del verbo star bene. Per prevenire influenza, polmoniti e altre malattie. Vacci a vaccinarti, per favore. Vacci a vaccinarti. Non ti scordare di te. Campagna di Happy Aging per la vaccinazione over 60. Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. Ottava puntata. Venne un belato lamentoso dal pomeriggio fuori e non si spense, salì, diventò una musica. Erano zampogne. Ora comincia il tempo delle novene, disse mia madre. Poi soggiunse, bisogna che vada a fare il mio giro. E si mise su una sedia a cambiarsi le scarpe, si tolse quelle da uomo, infilò un paio di stivaletti da donna che stavano sotto la tavola. «Il tuo giro? Che giro?» chiesi io. «Ti porto con me», mia madre rispose. Si alzò con gli stivaletti ai piedi e fu più alta e ondulata. E passata in camera a vestirsi per fuori, mi parlò di lì in mezzo alla musica delle zampogne. Mi disse che si era messa a fare iniezioni. Riteneva, disse, di non potersi aspettare nulla da mio padre e si era messa a guadagnarsi la vita così, facendo iniezioni. Vestita d'un cappotto nero e con una grande borsa un po' da levatrice infilata nel braccio, mi condusse fuori, nel freddo sole, e il viaggio in Sicilia ebbe una nuova ripresa. Passammo di dietro alla casa per una strada che scendeva e andando tra muri d'orti arrivammo a una porta e bussammo. La porta si aprì. Dentro era buio e io non vidi chi ci avesse aperto. Non c'era finestra. C'era solo nell'alto della porta uno sportello con un vetro nerastro. E io non vidi nulla, non vidi più nemmeno mia madre. La sentivo però parlare. «Ho con me mio figlio», disse. Poi chiese, «Come sta vostro marito?» «Al solito, Concezione», rispose una voce di donna. Ed esclamò, «Che grande figlio avete!» E dal fondo una voce d'uomo disse, «Sono qui a letto, Concezione!» Era sotterranea e disse ancora, «È figlio vostro, quello!» «È Silvestro!» mia madre disse. Parlavano lontane da me tutte e tre le voci ed erano di creature invisibili. Anche di me parlavano. «L'avete fatto grande come voi!» disse la voce di donna. Mi vedevano ed erano invisibili. Erano come spiriti. E come uno spirito mia madre fece l'iniezione perfettamente al buio, parlando di etere e di ago. «Dovete mangiare», disse. «Più mangiate e più presto guarirete. Che avete mangiato oggi?» «Ho mangiato una cipolla», la voce dell'uomo rispose. «Era una buona cipolla», disse la voce della donna. «Gliel'ho arrostita nella cenere». «Bene», mia madre disse, «dovreste dargli anche un uovo». «Domenica gliel'ho dato», disse la voce della donna, e mia madre disse, «bene». Dal fondo del buio gridò a me, «ora andiamo, Silvestro». Io carezzavo caldo pelo di capra davanti a me. M'ero avanzato di qualche passo sull'ineguale terreno di terra nuda e cercando con le mani avevo incontrato caldo pelo. Stavo fermo nel buio freddo a scaldarmi le mani in quel pelo vivo. «Ora andiamo», ripeté mia madre. Ma la voce dell'uomo, dal fondo, la trattenne ancora un minuto. «Quante altre iniezioni dovrò fare?» chiese. «Più ne farete e meglio guarirete», mia madre rispose. «Ne ho altre 5, però», disse la voce. E la voce della moglie disse, «credete che guarirà con queste altre 5?» «Tutto è possibile», mia madre rispose. Si aprì allora la porta e mia madre ritornò visibile con la sua borsa da levatrice infilata nel braccio, sulla soglia. Uscimmo e ritornammo a camminare tra muri d'orti verso un'altra casa del giro di mia madre e svoltammo in una strada che correva sotto alla prima, in discesa. Di faccia c'era, oltre gli spazi della valle, la montagna irsuta di neve, e da un lato erano piccole case che nei loro orti sorgevano contro il cielo e la montagna lontana, dall'altro, al sole splendente e pur spento, erano anditi di abitazioni scavate nella roccia sotto le casupole e gli orti di più sopra. Gli orti erano minuscoli, apparivano più sopra tra tetto e tetto come recipienti con verdure, e per la strada c'erano capre infingarde al sole. Nell'aria fredda c'era musica di zampogne con tintinnio di campane da capre. Era una piccola Sicilia ammonticchiata di nespoli e tegole, di buchi nella roccia, di terra nera, di capre, con musica di zampogne che si allontanava dietro a noi e diventava nuvola o neve in alto. Domandai a mia madre: «Che malattia ha quell'uomo?» «Come gli altri», mia madre rispose. «Qualcuno ha un po' di malaria, qualcuno ha un po' di tisi». Non camminammo che un minuto o due e mia madre bussò a un'altra porta. E di nuovo io mi trovai nel buio, su un terreno di ineguale terra nuda, in un odore di pozzo abbandonato. «Ho con me mio figlio», disse di nuovo mia madre. E di nuovo io udii parlare di me gente che non vedevo. E tra le voci distinsi anche una piccola voce di bambino. Disse mia madre: «Avete le fialette?» «Le abbiamo», una voce d'uomo rispose. Altre voci parlarono insieme: «Accendi il fuoco, Teresa! Prendi la paglia!» E la voce dell'uomo parlò con la voce del bambino. Era voce di un uomo che teneva il figlio di un anno o due in braccio. Mia madre disse altre cose che riguardavano l'iniezione e l'uomo le rispose, fece dei rumori, aprì un cassetto con la piccola voce acuta del figlio in braccio. Poi, nella profonda oscurità di pozzo, brillò una luce di fiammifero. Io vidi le mani di mia madre e, passato il momento di quella luce sulle sue mani, udii la sua voce chiedere: «Ebbene?» Due o tre volte chiese: «Ebbene?» Chiese: «Come va?» E la voce dell'uomo chiese forte con la sua: «Concezione, dice, come va?» «Eh?» fu la risposta allora. E mia madre chiese: «Che le avete dato da mangiare?» «Le daremo la cicoria stasera», rispose la voce che era dell'uomo. Vi fu poi la domanda su quante altre iniezioni occorreva fare e lasciammo quegli spiriti, andammo via. Mia madre disse che era una fortuna fosse malata una donna invece di un uomo, perché una donna non importa se era malata, mentre se era malato un uomo, addio. «Come addio?» io dissi. «Non mangiano più né inverno né estate», disse mia madre, e disse che in genere le donne non sapevano come fare quando l'uomo si ammalava e non sapevano nemmeno andare a raccogliere un po' di cicoria nel vallone. E nemmeno andare a cercare chiocciole per la brughiera. Non sapevano fare altro che mettersi a letto insieme all'uomo. La musica di zampogne era lontana sulla cima del paese, perfettamente nuvola o neve, e dal fondo del vallone saliva ora un fragore di torrente. Entrammo in un buio dove si soffocava. Era buio e fumo. Eppure le voci degli invisibili parlarono calme come nelle altre case. Anche la voce di mia madre parlò non turbata dal fumo. «Ho con me mio figlio», disse. Fece gli stessi discorsi delle altre volte. Parlò di me, poi delle fialette, del lago, e per un momento una luce di fiammifero brillò sulle sue mani. Quando il momento di luce fu passato, chiese: «Ebbene, come va?» La risposta fu: «Ma». E mia madre chiese: «Che le avete dato da mangiare?» «Ora mangeremo», fu la risposta. «Stiamo cucinando», fu anche. Erano molte voci. Così noi uscimmo di nuovo e mia madre disse cose tutto al contrario della volta precedente. Disse che era una disgrazia dover ammalata la donna, la madre, Era meglio dove era malato l'uomo, disse. Tanto gli uomini l'inverno non lavoravano ed erano dei buoni a nulla. E se si ammalava la donna, addio, perché la donna, disse, poteva sempre andare a raccogliere cicoria nel vallone o cercare chiocciole per la brughiera. Era la donna, la madre, che teneva in piedi la casa. E di nuovo entrammo in un buio, di nuovo mia madre divenne invisibile, parlò invisibile, parlò di me. Ho anche mio figlio. Poi parlò di fialette e di ago, fece la iniezione a una fiamma di fiammifero che le rischiarò un momento le mani, poi chiese se il malato avesse mangiato e le fu risposto che qualcosa avrebbe mangiato, quella sera o domani, e si uscì. Mia madre tornò visibile e disse il contrario della volta precedente. Disse che quando era malato l'uomo, addio. E ancora scendemmo per il fosso nero della strada, del tutto fuori dal sole ormai, del tutto nell'ombra, con tintinnio di campane da capre e rumore di torrente e freddo. E ancora entrammo in luoghi di buio e odor di pozzo, buio e odor di buio, o buio e fumo. E mia madre parlava di me, preambolo, parlava di fialette e di ago, muoveva domande sul mangiare e sempre, mentre si andava via, c'era una piccola sospensione di una voce preoccupata che voleva sapere quante altre iniezioni occorreva fare per guarire e se non occorreva farne più di un certo numero, come 5 o 7 o 10. A questo modo viaggiavamo per la piccola Sicilia ammonticchiata, di nespoli e tegole e rumore di torrente fuori, di spiriti dentro, nel freddo e nel buio. E mia madre era con me, una strana creatura che pareva essere viva con me nella luce e con quegli altri nella tenebra, senza mai smarrirsi, come io un poco mi smarrivo ogni volta entrando o uscendo. Ogni volta uscendo essa diceva il contrario della volta prima. Una volta diceva che quando era ammalato l'uomo, addio, e una volta diceva che quando era ammalata la donna, addio. Diceva inoltre, qualcuno ha un po' di tisi, qualcuno ha un po' di malaria. E una volta diceva che era meglio avere un po' di malaria anziché un po' di tisi. Una volta diceva che era meglio avere un po' di tisi anziché un po' di malaria. Diceva, con la malaria non occorre andare a Enna per le medicine. Mi raccontò che era un disastro dover andare a Enna per avere dal dispensario le medicine della tisi e dover fare un lungo viaggio, dover spendere 32 lire e anche correre il rischio di essere chiusi in ospedale. La gente, mi raccontò, andava a Enna la prima volta, poi non voleva andarci più, non poteva. Invece con la malaria è il comune che dà le medicine, diceva. Ma la volta dopo diceva, con la tisi basta andare a Enna e si hanno tutte le medicine che si vogliono. Raccontò che era un disastro dover dipendere dal comune per le medicine della malaria. Il comune era povero, non aveva molte medicine e non dava mai più di una scatola. Come si poteva guarire con una scatola? Invece con la tisi è il dispensario di Enna che dà le medicine, diceva. È grande, è ricco. «È una cosa del governo», diceva. E ogni volta diceva il contrario della volta prima. Entrammo, ormai vicinissimi al fragore del torrente, in una casa dove c'era luce. Non era una casa scavata nella roccia, era una casa di sassi che sorgeva nel suo orto sull'orlo della strada. Aveva dietro una finestra e da quella finestra un po' di luce. «Buonasera, ho con me mio figlio», disse mia madre entrando. Essa non divenne invisibile e io vidi la gente. Vidi in loro tutta la gente che non avevo vista prima. Vidi a letto il malato, un uomo con gli occhi chiusi nella faccia sporca di barba, e vidi 5 o 6 donne come suore che sedevano a piè del letto attorno a un secchio posato in terra. Al solito mia madre parlò di me anzitutto. «Ho con me mio figlio», disse, e io vidi come lo diceva, vidi come ero guardato dagli altri alle sue parole. «Un grande figlio avete», disse una. Li ho tutti grandi. E questo è il più grande, mia madre disse. E la donna chiese, di dove vi è arrivato? Parlarono di me, al solito, mia madre e le donne. E io vidi che esse avevano il secchio pieno di chiocciole nere e prendevano chiocciole una alla volta. Succhiavano. Erano donne giovani e anziane, vestite di scuro, e quando avevano succhiato buttavano il guscio di nuovo nel secchio. «Buon appetito!» disse mia madre. Si mise quindi a parlare delle fialette e di ago, di etere, aprì la sua borsa, voltò il malato e gli fece l'iniezione. Io vidi il malato restare bocconi. «Ebbene?» mia madre gli chiese. Non vi fu risposta. E di nuovo mia madre chiese «Ebbene?» Rispose ora una donna anziana. «È inutile, non parla». «Non parla», esclamò mia madre. «Non parla», un'altra delle donne rispose. Le cinque donne succhiavano, sedute a piè del letto, e la più anziana disse forte «Gaetano, parla, c'è Concezione». Lentamente il malato si voltò su un fianco, ma non rispose. E la donna più anziana si rivolse a mia madre «Avete visto?» «Non vuol parlare», disse. Mia madre si chinò sul malato. Io la vidi posargli una mano sulla spalla. «Che storia è questa, Gaetano?» disse. «Non volete parlare?» Lentamente il malato si voltò dal fianco sulla schiena e mostrò la faccia. Ma di nuovo non rispose, né ancora aveva aperto gli occhi. «È inutile, Concezione», disse la donna più anziana. «Non vuol parlare. È da tutto ieri che non parla», mia madre chiese. «Ha mangiato?» Le donne indicarono il secchio e la più anziana rispose. «Sì, ha mangiato». Allora il malato improvvisamente parlò. Disse una parolaccia. Io lo guardai e vidi che aveva gli occhi aperti. Li teneva fissi su di me, esaminandomi. E io esaminai lui, in quei suoi occhi. E fu un momento come se ci trovassimo soli, uomo e uomo, senza nemmeno la circostanza della malattia. Né io vidi il colore dei suoi occhi, vidi in essi soltanto il genere umano che essi erano. «Di dove venite?» egli disse. «Sono figlio di Concezione», dissi io. L'uomo richiuse gli occhi e mia madre disse alle donne «Dovreste tenerlo allegro!» Poi a me «Silvestro, andiamo!» Tommaso Ragno ha letto Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.